Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. La cronaca delle economiche non solo in questi questa emergenza da coronavirus. Qualcuno mi segnala che c'è un problema nel collegamento con Facebook, ma a noi non risulta, adesso stiamo verificando. Per quello che riguarda i temi di oggi, allora è chiaro che commenteremo quello che è successo nel fine settimana, al di là delle critiche piovute sulla modalità di comunicazione del Presidente del Consiglio con Facebook alle 23:20, passate, molto rinviato, senza grandi contenuti, e l'abbiamo letto nel fine settimana. Qui il tema oggi è molto concreto, perché è stato firmato poco dopo le 19 di ieri il decreto che definisce le attività essenziali che potranno continuare a essere aperte. Il decreto è in vigore da oggi, ma le aziende avranno tempo per completare la chiusura fino a mercoledì 25, in questo accogliendo anche una delle richieste delle imprese di dare il tempo di espletare tutto un insieme di attività, le lavorazioni in corso, oppure il poter ricevere materiali già ordinati, già in viaggio verso i siti produttivi, o consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti. Cioè non si riesce a chiudere da un giorno all'altro per questi motivi. E poi specifica anche le 80 voci delle attività riconosciute come essenziali che continueranno a restare in funzione. C'è tensione però, stop ai cantieri dell'edilizia, solo per le opere infrastrutturali restano aperti. Adesso li leggerò con calma. CGIL e CISL e UIL hanno invitato le categorie a denunciare chi non risponde ai criteri di sicurezza, e sono pronti a una mobilitazione fino alla proclamazione dello sciopero, dove non vengano chiuse le attività definite nel protocollo o non vi siano le condizioni di sicurezza definite nel protocollo stesso. Hanno attaccato il DPCM inadeguato rispetto all'obiettivo. Domani vi sarà un incontro telefonico, chiaramente, tra il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, quello all'economia Gualtieri, e c'è una videoconferenza con CGIL, CISL e UIL. Patuanelli oggi dice: non abbiamo ceduto alle richieste degli industriali, l'obiettivo comune è salvare le vite umane. Il Presidente di Confindustria Boccia oggi dice: attenzione, con questo decreto c'è una grossa tema che dall'emergenza economica ci fa entrare nell'economia di guerra. Se il PIL italiano è di 1.800 miliardi, vuol dire che facciamo circa 150 miliardi al mese. Se chiudiamo il 70% dell'attività, vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni giorno. E poi Boccia ha aggiunto: non capisco lo sciopero generale su cose. Però c'è lo sciopero a Leonardo, ex Finmeccanica, e altre aziende. Mercoledì vi sarà lo sciopero dei metalmeccanici lombardi, sono pronti lo sciopero anche i metalmeccanici del Lazio. I sindacati della chimica lombarda hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 25, minacciano uno sciopero anche i sindacati del mondo bancario. E poi il timore di molte imprese, in questo caso del commercio, perché è un sondaggio condotto da SVG per Confesercenti, metà teme di non riaprire più, il 44% degli intervistati non esclude la possibilità di non riuscire a riaprire più. Adesso vediamo l'andamento. È chiaro che dopo il dato di ieri, oggi sarà fondamentale, qui mi riferisco ai dati diffusi dalla Protezione Civile, vedere se si sta strutturando un calo diciamo nella crescita, perché ieri il dato comunque è stato di un aumento dei positivi del 9%, che è uno dei più bassi. Noi stiamo tenendo una nostra tabella aggiornata, il sabato era stato del 13%, venerdì del 14%, giovedì del 16%, insomma, è uno dei più bassi da sempre. Calcolate che da lunedì 2 marzo a lunedì 9 marzo l'aumento dei contagiati, dei positivi, era di intorno al 20-23, addirittura 25-29% al giorno. Questa settimana, cioè la settimana che si è appena chiusa, si è andati dal 12 al 9%, quindi onestamente come incremento, è chiaro che è un incremento percentuale su numeri più grandi, quindi i numeri continuano a fare impressione, ma a noi interessa anche l'andamento percentuale per capire se sta cavolo di curva nella diffusione si stia piegando, non dico appiattendo perché non siamo a zero, ma piegando oppure no. E questo vale anche e soprattutto per i dati che abbiamo avuto ieri sulla Lombardia, dove erano dimezzati i nuovi contagi e ridotti anche i decessi come su base nazionale. L'altro tema di cui parleremo, lo dico perché come sempre alle 18 vi sarà l'appuntamento con i dati della Protezione Civile, l'altro tema di cui ci occuperemo riguarda le borse. Perché? Perché nonostante la Federal Reserve oggi abbia detto il suo quantitative easing, cioè i soldi che utilizzava per comprare titoli di Stato e garantire liquidità a banche e anche imprese, è a questo punto illimitato e quindi va oltre anche i 750 miliardi emessi dalla Banca Centrale Europea, e beh, la reazione della borsa, soprattutto americana, è stata pessima, nel senso che c'è stato un tentativo di rimbalzo, ma adesso Wall Street perde il 4,15%, ed è la peggiore delle varie borse, nel senso che Parigi perde il 3,60%, Francoforte il 2,40%, Londra il 4,22%. Questa mattina male l'Asia, era andato male a Hong Kong, meno 5%, e le borse asiatiche. Però lo dico perché Milano, paradossalmente, Seul aveva fatto meno 5,34%, Shenzhen meno 4,20%, Shanghai meno 3,11%. Però Milano perde, tra virgolette, solo lo 0,90%. Vanno bene alcune banche, Biper più 13,70%, Nexi più 11,40%, Diasorin più 4,20%, Salvatore Ferragamo più 3,80%, Unipol più 3,5% come Telecom, il 2,90% lo guadagna Banca Generali, il 2,60% Amplifon e Prismian, il 2,5% Fineco, il 2,2% rialzo di Poste Italiane e Azimut, il 2% quello di Mediobanca, L'1,60 rialzo di Enel, negativa Case New Holland, di nuovo tutto settore auto, meno 13,70% CNH, Atlantia meno 5,50%, Buzzi Unice meno 5%, qui c'è anche il blocco delle costruzioni dell'attività edilizia, non tranne quella infrastrutturale, Era meno 5%, Ferrari meno 5%, Xor meno 4,70%, Unicredit meno 4,30%, come Fiat Chrysler, Leonardo meno 4%, qui pesa il blocco di alcune attività, meno 3,20 Pirelli, meno 2,80 Saipem, meno 2,80 Moncler, meno 2,30 Terna. Allora, questi temi che affronteremo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dall'economia di carattere internazionale, perché il petrolio oggi ha tentato un timido rimbalzo, ma scusatemi se mi fermo, ma vedo molti messaggi che stanno arrivando, allora un attimo ancora. Dicevo, il petrolio timido rimbalzo, ma viaggia sempre sui minimi, $22,8 al barile, un po' in crescita l'oro a $1,529 l'once. Seul, appunto, è male oggi tutte le borse asiatiche. Goldman Sachs stima il PIL globale meno 1% nel 2020, quindi sarà recessione globale, e Morgan Stanley stima un calo del PIL del 30% negli Stati Uniti, e questo ha spaventato tra le altre cose anche la borsa. Un tasso di disoccupazione in rialzo al 12,8%, un crollo dei consumi del 31%. Questo a causa chiaramente del coronavirus. L'attività economica è arrivata a vicino a un fermo nel mese di marzo. Gli effetti negativi sul PIL americano a breve diventeranno molto più grandi. Queste tra l'altro sono previsioni che battono anche quelle di Goldman Sachs e JP Morgan, che hanno previsto un calo del 24% del PIL americano nel primo nel trimestre e del 14% secondo JP Morgan. Allora, Wall Street e il Dow Jones hanno bruciato tutti i guadagni accumulati dall'elezione di Donald Trump nel 2016. Trump, adesso non so valutare, non è ancora presto per valutare l'avversario di Trump, però è chiaro che se avesse un avversario forte questo rappresenterebbe una grossa ipoteca sulla sua rielezione. Trump ha sempre fatto della corsa di Wall Street uno dei cavalli di battaglia, è stato quello che ha eliminato l'Obamacare, l'assicurazione sanitaria nazionale di Obama, ha minimizzato il virus finché poteva, ci sono decine di sue dichiarazioni, tweet che lo paragonavano a un'influenza. Vale anche per Boris Johnson, nel senso che Boris Johnson non ha un avversario, i Labour sono ancora allo sbando, ma avesse un avversario politico probabilmente non se la passerebbe bene. Forse potrei fare lo stesso ragionamento anche su Macron, visto che è molto criticato in Francia per le famose, famigerate ormai, elezioni amministrative per poi chiudere il paese. Però insomma, tornando a Trump, c'è un problema grosso, la comunità finanziaria sta dando un messaggio molto forte, ne parleremo a Trump. La Federal Reserve può dire quello che vuole, non ci basta, perché non è un problema finanziario. E Mnuchin, il ministro dell'economia americano, il segretario del tesoro Steven Mnuchin, ha detto che il pacchetto di stimoli allo studio vale 2.000 miliardi. Trump, non possiamo lasciare che la cura sia peggio del problema in sé. Finiti i 15 giorni prenderemo una decisione su come procedere. Il problema è che l'America a questo punto è diventata il terzo paese al mondo dopo Cina e Italia come numero di contagiati. Ci sono 35.000 casi negli Stati Uniti e i morti, poi bisogna vedere come vengono conteggiati i morti, sono 471, ma i casi sono 35.000, quindi dopo Cina con più di 80.000, Italia con 59.000, la poco invidiabile classifica vede Stati Uniti con 35.000, Spagna, che oggi ha fornito dei dati terribili, perché adesso i morti sono aumentati di 462 in 24 ore, quasi un livello italiano, e i morti a questo punto in Spagna sono 2.180, e i contagiati sono 33.000, il quarto paese. Poi c'è la Germania con 27.000, aspettiamo la Francia che esce più tardi, esce verso le 19.30-20, perché il dato di ieri in Francia era ancora di 16.000. Ma guardate, guardando la tabella che commentiamo ogni giorno, è pazzesco, perché la Francia oggi andrà più o meno al livello che avevamo noi tra venerdì e sabato, venerdì 13 e sabato 14, quindi mantiene questi 9 giorni di ritardo. La Spagna sta aumentando invece, tra virgolette recuperando, nessuno vorrebbe recuperare sull'Italia, ma con i 33.000 morti è come noi quasi mercoledì scorso, mercoledì 18, quindi la Spagna ha una differenza con noi di 5-6 giorni. E gli Stati Uniti sono come noi mercoledì 18, chiaro che sugli Stati Uniti però c'è un tema che la popolazione è molto più ampia, mentre in Spagna è qua un terzo più o meno più bassa di quella italiana. Poi c'è la Svizzera che ha molti casi, 8.500, e il Regno Unito che deve ancora diffondere, ne ha 5.700. Dunque, dall'Unione Europea si va verso l'acquisto centralizzato di materiali e dispositivi per il contrasto alla pandemia. È un passo in avanti, come ha ricordato il ministro Speranza, visto che l'Italia aveva chiesto da subito all'Europa di agire in maniera coordinata. Vi saranno le corsie verdi dell'Unione Europea per fare circolare le merci, corsie verdi, corsie preferenziali. L'obiettivo è di garantire un passaggio delle merci alle frontiere entro 15 minuti, quindi corsie aperte per tutte le merci, sospensione delle restrizioni dei governi nazionali. E invece sta crollando, continua a crollare il mondo delle compagnie aeree e dei produttori aerei. Airbus ha cancellato tutto il dividendo 2019, ma addirittura è crollato il mercato degli smartphone negli Stati Uniti, meno 38%. Ancora due notizie in breve. Per quello che riguarda lo spread, mi chiedete giustamente, siamo a 198 punti. Sì, confermo che la Spagna ha toccato i 33.000 contagiati. e purtroppo ha superato i 2000 morti. Spagna è il paese in questo momento in Europa più vicino a noi, è nel quarto nella classifica sul numero di contagiati. E invece, andando avanti, qualcuno mi scrive: guardi che anche i nostri politici all'inizio dicevano sì, ci mancherebbe, abbiamo visto di tutto, minimizzare opposizione e governo, con una piccola differenza, non per salvare i nostri politici, opposizione e governo, che noi siamo stati il primo paese occidentale, democratico, trasparente ad affrontare questa vicenda. Non posso chiamare trasparente la Cina e neanche la Russia, oltre che democratici. E quindi è più grave vedere che Trump minimizzava quando noi contavamo già 15.000-17.000 contagiati, nell'idea che fosse un'influenza. È più grave vedere che la Francia, pur essendo già in una traiettoria identica a quella italiana, ha voluto fare le amministrative, o che la Spagna si sia mossa solo quando le è esploso tutto. Questo dico io. Anche i nostri hanno minimizzato, ci mancherebbe, ma almeno hanno la scusante che eravamo i primi in assoluto. Ho detto anche l'opposizione, non sto facendo propaganda per il governo. Andiamo avanti con invece il governatore della regione Lombardia, Fontana, perché c'è stato un dubbio, la regione Lombardia aveva chiesto misure molto più stringenti, la chiusura di tutto, la chiusura totale, tranne le attività appunto alimentari e relative al mondo della salute farmaceutico. Fontana ha detto: io non ho nessun problema col governo, se prevale il DPCM non vi sarà nessuna guerra al TAR, nessuno ricorso al TAR. Ma io non ho mai avuto nessun problema col governo. Guarda che io sento il ministro Boccia, il ministro Speranza, il presidente del Consiglio, non dico quotidianamente, ma certe volte anche bi-quotidianamente. Ci sono delle tesi e dei problemi che io avrei risolto in un modo diverso e loro l'hanno risolto in un modo diverso. Ripeto, se io le dicessi, sì, che nel momento in cui il DPCM ha sopravvento sulla mia ordinanza io faccio la guerra e vado al TAR, le direi sicuramente che faccio una cosa sbagliata e dimostrerei di volere la guerra, ma io non voglio nessuna guerra. Chiederemo se il provvedimento mio viene spazzato via dal provvedimento del governo, se il mio provvedimento rimane. Oggi infatti ho detto cercheremo di fare degli approfondimenti e cercheremo di chiarire quale dei due si stia in vigore, ecco. Con ciò diciamo che io posso, credo legittimamente, dire secondo me era più giusto la mia, va bene, e beh, se non si può dire quello. Così appunto il presidente della regione Lombardia, Fontana, ospite questa mattina 24 mattina con Simone Spezia e Maria Latella, e Conte conferma: ogni scelta è stata valutata con Fontana. Domani dovrebbero arrivare sanzioni più pesanti, multa, si discute di una multa intorno ai 2000 euro, e inasprire l'ammenda introducendo anche una sanzione amministrativa e non solo penale, quindi non solo i 3 mesi ma anche i soldi che sono bassi adesso. E via libera dell'ENAC ai droni per monitorare gli spostamenti, i controlli sono stati a Milano ieri 5.425 denunce, nel complesso nel paese sono state ieri, hanno controllato 157.000 persone e 10.000 sono state denunciate, che voglio dire siamo intorno al 7% dei controllati mal contati, no? Per cui 8% sì, di quelle che circolavano, che quindi vuol dire che insomma questi dispositivi sono rispettati, lo dico, dalla maggior parte degli italiani adesso. Comunque, andiamo alla parte del decreto firmato ieri che riguarda le attività essenziali e le imprese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vedo molti messaggi su come si comportano gli altri paesi europei, la Germania. Sì, la Germania non tornano i casi dei morti, stanno conteggiando, come mi sembra abbastanza chiaro, come morti solo quelli che non hanno altre patologie. Ma ripeto, adesso andiamo avanti con i temi di economia. È parziale e speccioso parlare solo dei morti, perché il vero problema, oltre al lutto per tutte le persone scomparse, l'altro problema è la saturazione della sanità. Ora, la Germania può anche, diciamo, contare i deceduti in maniera diversa da noi, ma ha comunque 27.000 casi, e quindi le strutture ospedaliere vanno sotto sforzo, si intasano, rischiano di non reggere. Comunque, sia che tu poi i deceduti li conti tutti come coronavirus, perché avevano il coronavirus che ha contribuito a aggravare la patologia, oppure conti solo quelli che non avevano altre patologie, cambia purtroppo poco dal punto di vista della tenuta del sistema sanitario di un paese, perché le sale rianimazione si riempiono uguale e hai bisogno di più posti, rischi di non garantire la sanità agli altri cittadini che hanno altre patologie. E questo è il dibattito sulle morti: più morti di un'influenza, meno morti di un'influenza, chi se ne frega se tu poi c'hai 20.000 persone ricoverate. Che poi l'Europa non avesse un protocollo unico sanitario, ma avesse tantissime misure per il commercio su quanto devono essere grandi le zucchine o quali vongole si possono pescare, è verissimo. Ma nulla sarà più come prima, neanche l'Europa, per alcuni versi per fortuna secondo me, sarà più come prima rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Allora, Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Alberto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Qui il tema è molto delicato, perché da un lato c'è la richiesta di Lombardia e Veneto, ma anche il Piemonte, di chiudere la maggior parte delle attività produttive, tranne quelle essenziali, appunto alimentari e prodotti medicali. Dall'altra però ogni tanto non si capisce, a mio avviso, che esistono anche attività che servono. Poi faccio per esempio, se tu fai manutenzione di macchine da packaging, le macchine da packaging ti servono per fare poi il prodotto alimentare che deve arrivare sugli scaffali. Ora non puoi bloccare chi fa manutenzione di queste macchine. A me ha scritto anche un imprenditore che ha un importante gruppo di forni da pane, ha detto: ma io posso almeno fare la manutenzione? Non si capiva niente in questi giorni, perché fornisco forni per la panificazione di carattere industriale a grandi gruppi alimentari italiani. Se gli si rompe un forno io devo poter dare l'assistenza. E dall'altro, che delle volte, Alberto, secondo me non si capisce l'intera filiera, cioè ci sono impianti che, per esempio, per ragioni tecniche, gli impianti a ciclo continuo è molto difficile spegnere, come sappiamo nel caso dell'IVA di Taranto, ha difficoltà poi a riaccenderli, e ci sono anche, come segnalava la lettera poi di Confindustria al Presidente del Consiglio, i tempi che devi dare alle imprese che pure chiuderanno perché non rientrano nelle 80 categorie che poi leggerò, ma stavano ricevendo materiali ordinativi già in viaggio, stavano per consegnare dei prodotti destinati ai clienti. È questo che delle volte sfugge anche all'opinione pubblica, Alberto? Temo di sì, nel senso che immaginare di applicare semplicemente i vecchi codici Ateco, perché così si chiamano i codici, sì, certo, identificativi dei settori meteorologici di appartenenza, è un'operazione un po' elementare che non tiene conto dello sviluppo che c'è stato poi nel proseguo del tempo dell'articolazione di diversi settori. Questi sono dei codici che si applicavano a metà del Novecento, diciamo, nei decenni scorsi, e che adesso non va più bene a disegnare esattamente come sono diventate le filiere produttive. Giustamente parlavi degli imballaggi, per esempio. Gli imballaggi oramai sono tornati di gran voga, ovviamente, perché sono quelli che ricoprono i prodotti che tutti compriamo nei supermercati, e in questo momento garantiscono maggior sicurezza anche rispetto ai contagi, è evidente. Però se tu blocchi le aziende che poi fanno le pellicole, che producono quel tipo di materia prima, è chiaro che non riesci neanche a tenere attivata la filiera dell'agroalimentare, così come è la manutenzione anche perché oggi è una manutenzione, ma è anche una produzione, volendo. E poi c'è tutto il fatto manutentivo, che è fondamentale poi nel modo con cui oggi si vendono anche i manufatti meccanici, che incorporano appunto un rapporto molto più stretto con il cliente finale, soprattutto nella parte di servizio di manutenzione, che è parte integrante del prodotto, diciamo così, dell'aggiornamento dei pezzi, dell'anticipo di eventuali possibili malfunzionamenti di parti meccaniche, ed è un tutt'uno che praticamente è un ciclo, è totalmente integrato nel ciclo produttivo di chi fa quella macchina. questa il decreto non è. Ma ti faccio un esempio di quanto sia poi difficile andare solo con i codici Ateco, che sono quelli commerciologici. Mi ha appena scritto, mentre tu parlavi, un ascoltatore: noi facciamo assistenza a macchine per cucire, e fin qua dici, vabbè, tu ti chiudi, tu fermi. Però abbiamo aziende che producono mascherine. Appunto, allora, o camici. Allora, il nostro codice del commercio, saremo chiusi. Certo, perché chi fa tessile puro è chiuso. Però se poi tu dentro con quella roba lì fai le macchine, fai l'assistenza alle macchine da cucire che vengono usate anche per far camici e mascherine, dovresti avere una possibilità di uscire da solo codice commerciale. Guarda, te lo dico con massima trasparenza, qua nessuno sta cercando di fare il furbo, perché il DPCM è chiaro, tutte le attività non essenziali devono chiudere. Il problema è proprio capire nella filiera della produzione se tu sia o no essenziale. Resta con noi Alberto, perché dopo il meteo ricorderò le attività previste dal DPCM 22 marzo 2020, e cercherò di capire invece con te anche che cosa stia capitando sul fronte sindacale, perché qua dai metalmeccanici e chimici, dalle banche a Leonardo, stanno scioperando vari settori industriali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mentre vedo che in Spagna stanno ricorrendo a Madrid anche a un centro commerciale per ospitare le salme. I cadaveri dovranno essere ospitati anche in un centro commerciale dotato di una pista di pattinaggio, e quindi immagino con temperature, garantendo le temperature fredde. No, questo lo dico perché la situazione in Spagna sta seguendo, ahimè, passo per passo quella italiana, e già prevedono 300.000 posti di lavoro persi e un calo del PIL dell'1,7%. Dunque, Alberto Rioli, dicevo, si è creato forse un braccio di ferro, una incomprensione. Le attività essenziali dal DPCM 22 marzo 2020. Tutte le filiere ritenute essenziali legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale, compresa la fabbricazione di forniture mediche e dentistiche, inclusa anche la filiera del legno e la fabbricazione delle bare, ahimè. Sul fronte agroalimentare restano attive l'industria delle bevande, del cibo e la zootecnia. Gli studi di professionisti resteranno aperti, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, così come l'intera filiera della stampa, della carta, al commercio, all'ingrosso, di libri, riviste, giornale, fine servizi di informazione e comunicazione. Edicole, tabaccai aperti, le famiglie potranno continuare ad avere colf e badanti se sono conviventi le badanti, e a servizi del portiere in condominio. I call center continueranno a operare nel rispetto delle regole, guanti e mascherine. Poi, nella pubblica amministrazione restano aperti gli esercizi legati a sanità, difesa e istruzione, rigorosamente a distanza, attivi anche i servizi dell'INPS e assistenza sociale residenziale e non residenziale. Il resto chiude. L'industria tessile continuerà a operare, escluso l'abbigliamento. Non vengono interrotte le produzioni di gomma, materie plastiche, prodotti chimici, raffinerie petrolifere, salve le attività legate all'idraulica, all'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionatori e le diverse forniture, energia elettrica, acqua, gas. Aperte anche le manutenzioni di personal computers, telefoni, elettrodomestici, e poi le riparazioni di cui facevamo riferimento, della strumentistica utilizzata nella filiera alimentare, farmaceutica o dei trasporti, comprese le riparazioni di auto e moto. Infine attive la gestione fognaria, la raccolta dei rifiuti, le attività bancarie, postali, assicurative e finanziarie, i servizi di vigilanza privata e le attività di pulizia e disinfezione. Alberto, quindi su chi si applica di più questo DPCM, visto l'elenco di chi può, a mio avviso, correttamente restare aperto? Ah, insomma, io penso che ci sia questo sforzo nel tentare di definire appunto chi resta aperto, ma purtroppo ci sono gli strumenti interpretativi che vengono utilizzati, sono vecchi e non sono perfettamente adatti, però credo che il buon senso riuscirà anche a consentire ai prefetti di gestire al meglio questa vicenda, anche perché altrimenti rischia di sfuggire di mano e di avere delle conseguenze su un'economia che già è assolutamente prostrata, ancora più forti evidentemente, ma soprattutto ha conseguenze, perché lì non è chiaro, per chi ha lavori in corso, ha commesse in atto, ha approvvigionamenti che sono a metà e devono ancora essere consegnati magari nell'ultimo miglio. Ecco, su tutta questa serie di situazioni che sono ambigue, non sono state previste dal decreto, probabilmente servirebbe un ulteriore prolungamento o comunque un chiarimento da fare. Ecco, mi sembra che si stia creando confusione anche per un altro elemento. Io ho fatto sentire Fontana prima sulla legge lombarda, dice non farò ricorso. Così sembrerebbe prevalere come forza il DPCM, perché alcuni mi stanno scrivendo: guardi che però in Lombardia gli studi professionali sono aperti, sono chiusi fino al 15 aprile. È vero, in effetti c'è una grande discussione anche fra i costituzionalisti per capire qual è diventata la nuova gerarchia delle fonti normative, sulle fonti normative, se l'ordinanza regionale è superiore a un DPCM e soprattutto in un'articolazione di questo genere, perché in effetti potrebbero essere fonti di pari entità, diciamo così, di pari peso istituzionale, però tanto è vero che nell'ambiguità anche qui il governatore può dire io applico la mia, e questo crea però una grandissima incertezza e francamente non dovrebbe essere possibile, perché c'è una disparità anche poi tra studi professionali che magari sono in regioni diverse e stanno entrambi però all'interno di una zona da focolaio e hanno trattamenti completamente differenti. Questo non avrebbe senso obiettivamente, quindi tutte queste cose andranno poi riportate, ripeto, a più miti consigli e alla inevitabile buonsenso da parte dell'applicazione che ne fanno i prefetti. Allora, dunque, per quello che riguarda, vedo molte notizie dall'Ecofin, è arrivata la sospensione del patto di stabilità, come aveva chiesto la Commissione Europea, un atto formale, ma adesso ce l'abbiamo. Invece Macron e Xi Jinping hanno chiesto, il presidente francese e quello cinese, la convocazione di un G20 straordinario per il coronavirus. Immagino si terrà a distanza, no? Non dovrebbe esserci, ma manca solo il G20 con la foto di gruppo, tutti quanti a mezzo. Prego Alberto. No, volevo fare un'osservazione sulla cosa europea, perché ancora sì, d'accordo, l'allentamento del patto di stabilità va bene, ce l'aspettavamo. Ma speriamo che domani, che è l'ultimo giorno di lavoro dell'Ecofin appunto, venga fuori qualcosa di un po' più complicato sul fondo. L'atteggiamento da avere sul fondo, che sia MES, che sia la BEI, che sia qualcos'altro che di diretta emanazione dell'Unione, non lo so, ma ci vuole un segnale che si abbia una sua concretezza. E forse le dichiarazioni degli olandesi di oggi non aiutano, perché hanno detto che appunto il MES sì, ma secondo le vecchie modalità di condizionalità per chi ne fa uso, che vuol dire troica, magari non proprio la troica, però mi sembra che tutto abbia senso in questo frangente, tranne che mettere alcuni stati nelle condizioni di dover far finta di essere neoliberisti nel momento in cui non hai mai la base economica. Non ho mai capito gli olandesi, un popolo che adoro, insomma, in questi anni come linea governativa sono talmente schiacciati sulla Germania che da essere più tedeschi dei tedeschi. Vediamo, perché paradossalmente la Germania è quella che sta aprendo di più. Perché quando hai 28.000 casi che diventeranno domani 30.000, no? E stai seguendo l'Italia e sei come l'Italia esattamente lunedì 16 marzo, per cui una settimana fa, perché noi avevamo 27.900 casi, loro ne hanno 27.800, forse da lì arriverà la spinta, o forse, lo dico con un po' di cinismo, devono arrivare più casi, più danni economici a Olanda e Finlandia, che in questo momento stanno dimenticando che l'Europa siamo tutti uguali, per carità, però i tre paesi che in questo momento sono nella classifica dei primi cinque, e cioè Italia, Spagna, Germania e Francia, i primi sette, sono anche le quattro economie più grandi dell'area. Ora poi possiamo far finta che la Finlandia sia uguale a noi come voto, ci mancherebbe, ma come peso economico, però poi la smettiamo di giocare a un certo momento. Alberto, l'ultimo commento che volevo con te e invece da te è la presa di posizione dei sindacati. È sembrato per un attimo, o anche più di un attimo, che i sindacati volessero tutelare la salute dei loro associati, perché non veniva fatto dalla disposizione del governo. Cioè, stiamo vedendo molti scioperi spontanei, minacce di sciopero metalmeccanici e chimici mercoledì. Sì, assolutamente. È una forma di pressione verso il governo che rientra nel grande filone del terrore per il mancato approvvigionamento di mascherine, che però anche lì c'è bisogno di un po' più di mente fredda, perché è chiaro che le priorità delle forniture dovranno andare poi ai servizi ospedalieri per proteggere chi è in prima linea e chi, anche oggi vediamo le statistiche, nel personale sanitario, beh, legacy anche soprattutto medici, il 10% dei deceduti è medico, quindi è un dato impressionante, devo dire, anche che non ha confronti internazionali. Quindi è evidente che c'è un deficit di protezione da parte della sfera pubblica verso il nostro personale sanitario, ed è la priorità per un governo che sta cercando mascherine e misure protettive per tutto il proprio personale. Poi è anche vero che poi bisogna fornirle anche ai lavoratori, appunto, di quelle fabbriche che rimangono aperte, che sono poche, però l'abbiamo detto, cioè sostanzialmente il 70% è chiuso. È chiaro che metterci il carico di uno sciopero in un momento in cui l'economia sta precipitando a zero forse non è proprio il massimo. Capisco anche però che non è neanche giusto, e non deve essere così, che uno vada a lavorare quando poi ha il collega che è a 30 centimetri da lui. Oppure che vada a lavorare se è un'attività non essenziale. Rispondo a un ascoltatore che dice: io sono fornitore di un'azienda considerata strategica e senza i miei semilavorati l'azienda strategica non può lavorare. Ma io non rientro nella lista. No, da quello che ho capito io. Esattamente quello. Nella lista a Teco, immagino, perché nel DPCM si parla di tutte le filiere ritenute essenziali nel settore alimentare, farmaceutico, biomedicale. Se lei è in filiera, io capirei che le deve fornire i semilavorati, perché il semilavorato poi serve l'azienda, non so se sia biomedicale o quant'altro per. E questa è la difficoltà più grossa. Vorrei chiudere, prima del traffico, con una buona notizia. Il paziente 1, il 38enne di Codogno, che ha un nome, si chiama Mattia, il primo caso accertato di coronavirus in Italia, non arrivato non i cinesi dello Spallanzani, è stato dimesso e dice: state a casa, e soprattutto da questa malattia si può guarire, però almeno lui è stato dimesso. Grazie ad Alberto Rioli. Traffico. Focus Economia. Dunque, dal misure del governo, il DPCM dello scorso 22, e cosa prevede, se vedremo se arriveranno ulteriori chiarimenti, quello firmato ieri. Passiamo invece ai mercati finanziari, ma non tanto per la borsa in sé. Do un rapido aggiornamento: Milano ha chiuso tra i migliori, meno 1%, con Biper più 14, Nexi più 11,5, di Assorin più 4,5, Unipol più 3,70, Poste più 3,5, Prismian più 2,90. Male come tutto il settore auto ancora, Case New Holland meno 15, Buzzi meno 6,5, Exor meno 6, Atlantia meno 5, Era meno 5,5, Ferrari meno 4,40, come Fiat Chrysler e Unicredit. Terna perde il 3,80, Pirelli il 3,70. Però dicevo, Milano è la migliore, perché in Parigi ha perso il 3,30, Francoforte il 2,10, adesso il Dow Jones sta molto recuperando, Londra perde il 4,30%, ma il Dow Jones è arrivato a perdere anche il 4%, nonostante l'intervento della Federal Reserve, che oggi ha detto: il nostro QE, l'acquisto di titoli di Stato e comunque di commercial papers, la garanzia che la liquidità ci sarà, ha un valore illimitato, cioè non ha dato nessun valore. Eppure, così non è. Wall Street continua a reagire male, e allora ringrazio Alessandro Platerotti e lancio la sigla di Dietro la Notizia per averci raggiunto in collegamento. Dietro la Notizia. Allora, Alessandro, editorialista del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti. Allora, i conti sono chiari, mi sembra oggi. Sembra chiaro, come dicevi, grande manovra straordinaria, reazione negativa, se non fiacca dei mercati. Che succede? Un po' quello che stai anticipando tu con le tue conversazioni. Questo è un piano che ha due volti. Uno, che è nuovo denaro dopo tutto quello che è stato dato, e vi faccio solo l'aggiornamento di oggi. Con quanto è stato deciso oggi, sono 125 miliardi di dollari al giorno, pari a 625 miliardi di dollari in una settimana. Questo servirà per comprare titoli che non vuole più nessuno. 5 sedute di borsa sono 35 ore. Ora, il nuovo piano significa 18 miliardi di dollari l'ora spesi sul mercato per mantenere sul Dow Jones. Questo vi dà un'idea dell'ultima frontiera. Ma che cos'è che non piace? Non piace la mancanza di obiettivi, strategie e soprattutto coordinamento. Continuano a parlare le banche centrali e dall'altra parte c'è il silenzio, non il silenzio, peggio. Prendiamo l'Europa, sospendere il patto di stabilità, le regole bancarie, Schengen, che cos'è? Ognuno va per sé. Va bene mettere un grande fondo, ma se poi permettiamo, questo è una missione che ognuno va per sé, manca il coordinamento. Sull'altro fronte, l'economia reale. Oggi i titoli che tu hai enunciato prima di bassi sono gli industriali, non più i bancari e basta. Ma perché? Prendiamo l'America. Nel piano annunciato oggi, a fronte dei 625 miliardi di dollari in una settimana, la spesa prevista per l'economia reale sono 300 miliardi di dollari in più. Questi garantiti da che cosa? Da un fondo di stabilità di 30 miliardi che era per le valute. I finanziamenti che saranno erogati alle imprese americane sulla base di questi nuovi 300 miliardi richiedono pochi criteri, pochi dividendi, niente buyback, riacquisto di azioni, limiti ai super stipendi e bonus. Non c'è una parola sui licenziamenti. Le aziende potranno prendere i soldi a disposizione delle mani, cioè, tu stai dicendo ma che non c'è nessun rischio. L'operazione di se l'operazione di salvataggio ci ho messo in piedi dall'America, per esempio, se ho ben capito il tuo ragionamento, Alessandro, da un lato sì, è una risposta tipica come nel 2008 le banche centrali, ma non è questo di cui hanno bisogno, perché non è una è crisi, denaro su denaro, è denaro su denaro, non è una crisi finanziaria, lo continuiamo a ripetere, è una crisi che può diventare finanziaria, ma è una crisi finanziaria che deriva economica, dalla mancanza di un'infrastruttura politica economica. E allora ogni volta che i governi dicono qui c'è una grande recessione, affronteremo una grande recessione, che cosa percepisce però il mercato? Che mi spendi 650 miliardi in una settimana, 18 miliardi l'ora, ma dall'altra parte per sostenere l'intera corporate America, cioè tutte le grandi aziende americane, è un terzo. E non solo un terzo, ma quello che preoccupa di più, come stavate dicendo anche voi, quali saranno i livelli occupazionali qua da questa crisi? Beh, insomma, le imprese americane, e questa è una miopia, a mio avviso, di veramente una miopia politica anche della Fed, ma perché la Fed non fa politica oggettivamente, è quella di non aver subordinato il mantenimento di alcuni livelli occupazionali. Cioè, cioè il fatto che gli aiuti che verranno dati alle imprese non prevedano però il mantenimento del... Assolutamente. Devo dire che da questo punto di vista, almeno per le imprese, per chi hanno lavoratori dipendenti, il fatto che noi abbiamo esteso la cassa integrazione in deroga e che si applica a qualunque impresa, anche con un dipendente o due dipendenti, chiaro che non tutela i professionisti, le parte IVA e i collaboratori, però almeno quello è un minimo di garanzia per la parte occupazionale per ora. Invece in America si è detto tu avrai accesso ai soldi, sì, se hai alcune clausole, se gli stipendi, sì, ma clausole finanziarie, non clausole è che finanziarie, ma non ti viene chiesto di mantenerli occupati. Alessandro, per concludere su questo, a me ha fatto molta impressione oggi che le tre principali banche d'affari che sono rimaste negli Stati Uniti hanno stimato, aspetta che devo riprendere, quello che sarà il calo, il crollo del PIL americano in questo trimestre. Ora, Morgan Stanley dice 30% in meno, con 13% disoccupati. Goldman Sachs dice 24% in meno e la migliore, si fa per dire, JP Morgan, che stima un crollo del PIL americano del 14% nel trimestre. Sono cifre mai viste. Cioè io e te eravamo in diretta nel 2008 e non vedevamo queste cifre. Prego. Guarda, hai fatto bene a dire queste cifre perché sono l'altro lato di quanto vi sto dicendo. Cioè, a fronte di che cosa? PIL, che significa economia reale, disoccupazione al 13% quando oggi è 2, 2,5, 3 in America. Significa che dal punto di vista di chi investe denaro per conto degli altri, dove si li togli dall'economia reale. E allora è per questo che la borsa cade, perché l'economia reale è quella che in questo momento non è tutelata. Per tutelare l'economia reale in un mercato globalizzato serve coordinamento, obiettivo e una strategia, cosa che non, che non si vede. Mi sembra che il problema principale è non essere parte del problema, ma non è la soluzione. Sì, il problema principale non è parte del problema e quindi ti riferisci anche a Trump quando dice... Alla fine, tra le banche centrali... Il virus cinese, sì, ma adesso lasciamo stare la responsabilità, abbiamo tutti capito che è nato in Cina questo virus, però il problema è che anche la Casa Bianca dovrebbe far capire come si articolerà il piano per l'economia reale, non solo per... Ma come lo coordinerà con l'Europa? Perché come lo coordinerà con l'Europa, certo. Tempo, più passa il tempo, più la questione si complica. Allora, noi siamo già in ritardo con l'Europa, figuriamoci quando dovremo aprire un fronte, non solo con gli Stati Uniti, ma persino con l'Inghilterra che è fuori. Eh sì, certo. E questo mi fa venire in mente quello che ci diceva il professor Perotti venerdì scorso, tutti parlano di piano Marshall. Il problema è che ai tempi c'era un paese, gli Stati Uniti, che non era stato distrutto dalla guerra e voleva dare soldi a Germania e Italia e non solo. Non esiste il piano Marshall, purtroppo, è giusto, non c'è, manca un piano. Ma adesso sono tutti che hanno macerie e quindi... Se continuano così sarà una ialta, non un piano Marshall, perché rimarranno solo due o tre potenze al mondo in grado di sostenerla, ma è ovvio. Dopo sì. Se facciamo una nuova redistribuzione di quello che è gli interessi mondiali, ma lo scenario si complica, più passa il tempo e meno la parte che doveva reagire adesso, che era la politica, la leadership, manca. Ci siamo salvati dal 2007 perché era una crisi finanziaria, poi abbiamo avuto la fortuna di Draghi che ha fatto da leader e ha sostituito le politiche economiche, e lui lo diceva in questo senso: io non basto. Quindi il limite... No, il problema è che neanche Draghi, che figuratevi, lo rivorrei subito dovunque, ma neanche Draghi potrebbe bastare. No, le banche centrali in questo momento non sono, diciamo, l'arma principale per vincere questa guerra. Devi fare politiche enormi da guerra per l'economia reale. Qui non è il nemico, non porta una bandiera, purtroppo non è rosso, nero, bianco, verde, è un nemico che riguarda tutti. Se il mondo è globalizzato, l'economia è globalizzata, la risposta deve essere all'altezza di questa sfida. Ma ecco perché vediamo se fanno sto G20. Io penso che si arriverà a una moratoria mondiale dei debiti. Cioè, tanto, quello io già mi tanto, ma è ovvio, stiamo tutti imbarcando debito a un certo momento, con buona pace dei finlandesi e degli olandesi che vadano. Farai una moratoria mondiale del debito, perché non puoi o moratoria oppure, come si fece a suo tempo dopo la seconda guerra mondiale, per non ripetere gli errori della prima. Un debito che paghi così in là a scadenza, che di fatto è un prestito a lunghissimo termine. Ecco, questo si può anche immaginare, cioè che te lo ridò fra con calma anni e anni e anni. Grazie anche Alessandro Platerotti. Andiamo su GR24, poi sentiremo la protezione civile e il tema europeo che si collega a quello che stava dicendo adesso Alessandro Platerotti. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci. Anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR. Ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te. Che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. In viaggio con Tommy è il podcast di Radio 24 che racconta l'autismo attraverso il diario della mia ricerca, assieme a mio figlio Tommy, di oggetti straordinari per un'iniziativa straordinaria, l'asta per i cervelli ribelli. Il nostro racconto sonoro si arricchisce ora di 3 puntate speciali, in onda la domenica alle 18 per 3 settimane. Saremo poi con voi in diretta a parlare di neurodiversità il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, per uno speciale Melog, ma anche con il film che Sky Arte ha dedicato all'avventura che ho vissuto assieme a Tommy e altre persone sicuramente fuori dall'ordinario. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino, il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchessi e dal 3 aprile vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Core, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Bergamo ha bisogno di te. e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con i suoi medici e tutto il suo personale, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag Sole per Ospedale Bergamo. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Questa è la, purtroppo in questi giorni, in queste settimane, il momento più brutto, diciamola così, perché arrivano i dati, ecco, la Protezione Civile, poi vi dirò anche gli Stati Uniti. Andiamo a Roma, Protezione Civile, bollettino quotidiano del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Bollettino del coronavirus. Oggi partiamo con il dato dei guariti, registriamo 408 guariti, che porta il numero del totale dei guariti a 7.423. Il numero delle persone positive, l'incremento delle persone positive, attualmente positive, è di 3.780. Il totale attuale dei positivi è di 50.418. Di questi 26.522 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3.204 in terapia intensiva, pari al 6% delle persone positive, il resto sono in ospedale, in reparti ospedalieri ordinari. Purtroppo oggi registriamo anche il numero delle vittime di 602 nuovi deceduti. Per quanto riguarda l'attività di oggi, è proseguita l'attività della centrale remoto di soccorso sanitario. Sono stati trasferiti 4 pazienti, sempre dalla Lombardia. Il totale dei trasferiti dall'inizio dell'emergenza sono 68. Di questi, 28 pazienti positivi al coronavirus e 40 non. Allora, riprendo la linea perché è importante, perché è il secondo giorno consecutivo dopo ieri che calano. Qui nessuno sta diffondendo facili entusiasmi, però è il secondo giorno consecutivo che calano sia il numero di nuovi contagiati che le vittime, perché come appena ricordato Borrelli, i nuovi contagiati sono stati 3.780, ossia una crescita rispetto a ieri dell'8%, ieri rispetto a sabato eravamo cresciuti del 9%, sabato rispetto a venerdì del 13, venerdì rispetto a giovedì del 14, giovedì rispetto a mercoledì del 16. Quindi è la prima settimana, io ho sotto mano tutta la tabella, in cui da praticamente due settimane almeno, che si scende sotto la doppia cifra nell'incremento dei positivi, più 9% ieri, più 8% ieri. Speriamo, perché tutti stiamo guardando con attenzione l'eventuale effetto positivo delle misure di contenimento che in Lombardia e in altre aree erano iniziate domenica 8 nel resto d'Italia sono partite da mercoledì 11, quindi le due settimane si avranno dopo domani. Però nel cercare di guardare più nella tragedia, perché ci sono 602 morti in più, però di nuovo i morti, massimo rispetto per le vittime, sono in calo rispetto ai 650 di ieri, e ai 790 di sabato e ai 627 di venerdì. Quindi io non so dirvi se abbiamo toccato tra venerdì e sabato il picco come tendenza, come numero di morti assoluti. Sabato furono 793. In miglioramento anche i dati della Lombardia, che adesso sto cercando, perché questo trend si ha anche nei dati sulla Lombardia. Dove invece non sta migliorando nulla è negli Stati Uniti. Hanno superato poco fa i 40.000 casi con 472 morti negli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti si confermano a questo punto secondo paese dopo l'Italia per numero di contagi. Per quello che riguarda appunto i dati, i guariti sono 408, più di ieri sono 7.400, però a me interessa soprattutto l'andamento dei contagi, appunto più 8% e dei deceduti, ma anche mi interessa i deceduti sono tantissimi, non sto, figuratevi 602, però ripeto, in secondo giorno che calano rispetto a sabato, vediamo se questo dato poi verrà confermato domani, dopodomani e quant'altro. Allora, nel frattempo, notizie di carattere economico: il Vinitaly, la più importante appuntamento italiano del vino, è definitivamente cancellato per il 2020, non si terrà l'edizione, la prossima sarà nel 2021. Era stata posticipata dal 18 al 20 aprile, posticipata poi a maggio, ma insomma il rinvio insieme a Sola Agrifood e Nolitech è stato deciso dalla fiera oggi. Era stata posticipata a giugno, ma evidentemente non vi sono gli elementi per avere nessun tipo di certezza su giugno, e quindi si è deciso di spostarla poi all'anno prossimo, cancellata definitivamente. Anche perché è una fiera che non si può spostare a settembre, visto che poi il mondo vitivinicolo va in vendemmia e non riesce a fare la fiera e anche la vendemmia. Questi sono tutti i calcoli che poi faremo dopo, pensate solo ai pernottamenti, agli alberghi e quant'altro. Comunque, in questo momento stiamo commentando i dati della Protezione Civile, che appunto segnalano un miglioramento, pur con delle cifre, rispetto a ieri. Andiamo sul traffico. Qualcuno mi dice: non è serio paragonare l'Italia con gli altri stati, con gli Stati Uniti. Non sto paragonando l'Italia con gli Stati Uniti, ci mancherebbe, sono una popolazione diversissima dalla nostra e molto più numerosa. Sto paragonando l'andamento italiano giorno per giorno e sto guardando quello che capita negli altri paesi, dove la Spagna ha superato i 33.000 e la Germania i 27.000. Anche sulla Spagna vale lo stesso ragionamento, avendo meno abitanti di noi, e sì, sono appunto 3.780 i contagiati. Il dato anche geografico, quindi per regione: in Lombardia sono 1.000 in più di ieri, in Emilia Romagna 800 per un totale di 18.900, in Emilia Romagna sono 830 in più di ieri per un totale di 7.200, in Veneto sono 342 in più per un totale di 4.986, in Piemonte più 400 per un totale di 4.529, Marche più 127 per un totale di 2.358, Toscana più 157 totale 2.300, Liguria più 200 contagiati per un totale di 1.550, Lazio più 142 per un totale di 1.414, Campania più 63 per un totale di 929, Friuli più 33, 771 in totale, Trentino più 29, 914 in totale, Bolzano più 40, 688 in totale, Puglia più 114, 862 in totale, Sicilia più 85 per un totale di 681, poi sono 66 in più in Abruzzo, 605 in totale, Umbria 56, 556 in totale, Valle d'Aosta più 25 per 379 in totale, Sardegna più 6 casi per 343, Calabria più 20 casi per 280 in tutto, Basilicata più 8, Molise meno 2. No, questo è importante perché sembra ancora di più dai dati di oggi che, al di là delle tre regioni, Lombardia in primis, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, diciamo quattro regioni che hanno più di 4.000 casi, il resto del paese stia tenendo, io lo dico con tutti i segni scaramantici possibili, il Lazio soprattutto, 142 casi in più, ma anche la Campania 63 casi in più, la Sicilia, parliamo di regioni densamente popolate, la Sicilia più 85 casi, la Puglia più 114. Non sembrerebbe, siccome stiamo ragionando anche sulle due settimane fa, la fuga di migliaia di persone da Milano, dalla Lombardia, i treni presi d'assalto, si dovrebbero già vedere, cioè queste dovrebbero essere le conseguenze di quel, quanto è successo quel sabato 7, domenica 8. Non mi sembra che la crescita in Sicilia, Puglia, Campania e Lazio, pur essendoci, sia una crescita, diciamo così, così preoccupante, per cui per ora sembra tenere. Andiamo sul traffico però. Focus Economia. Adesso, prima di collegarci con Bruxelles, conferma appunto in Lombardia c'è stato un calo sia dei morti che dei positivi. Quindi ieri c'era stato un aumento di 1691 casi, oggi di 1550, quindi più di 140 in meno come aumento. I morti erano stati 361, oggi sono stati 320 in più. Quindi, pur essendo una cifra altissima, che porta il numero di vittime complessive in Italia a 6.000, ha superato i 6.000 l'Italia, 6.077, però vediamo se sta curva continua a piegare. Antonio Poglio Salimbeni in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. La domanda è molto semplice. Sì, ci deve essere si ragiona molto su l'Europa oggi ha formalizzato, l'Ecofin ha formalizzato la sospensione del patto di stabilità, però da più parti si fa notare, lo diceva prima anche Alessandro Paterotti, che insomma, ancora non c'è il piano che molti si aspettano, cioè non è chiaro. Domani è attesa la discussione di strumenti straordinari come il MES, il meccanismo salva stati. Ora, qual è il timore del MES? Che se passa la linea ortodossa olandese e finlandese, mi sembra che la Germania stia aprendo un po' di più, il MES sostanzialmente ti porta a poi essere commissariale. La dico male, ma per farmi capire, tu chiedi soldi al fondo salva stati, però poi accetti tutto un insieme di commissariamento. Ora, il ragionamento dell'Italia, ma anche della Spagna, la Francia, adesso vedremo i dati, è messa uguale, attenzione, non è che qui abbiamo sbagliato noi a gestire l'economia del paese, abbiamo sfondato il deficit e chiediamo aiuto al fondo salva stati, allora tu sì, ci dai l'aiuto, ma come punizione, tra virgolette, ci metti una specie di commissariamento. Qui è esplosa un'epidemia nata in Cina, che in Spagna ha toccato i 33.000 casi, in Germania i 28.000, in Francia arriveranno a 20.000 probabilmente oggi, e in Italia ne ha già 59.000 o di più. Ora, e quindi che senso ha mettere un insieme di meccanismi punitivi come se un paese avesse truccati i conti, modello la Grecia, che a me già non piacque, però lì c'era stato un paese che aveva truccato i conti. E se mi commenti anche le dichiarazioni di Dombrovskis oggi, sono fiducioso che l'Ecofin appoggerà la soppressione del patto, ma soprattutto ha detto sì, il meccanismo salva stati si può dentro l'Olanda, però bisogna rispettare una forma appropriata di condizionalità. Sembra dire l'Olanda sì, si può ricorrere al MES, ma prendendosi tutto quello che il MES prevede. Ma dunque è evidente che nel momento in cui si deve condividere un rischio, rinasce sempre lo stesso problema, l'eterno problema dell'unione monetaria, per cui ci si divide fra fronte del nord, compresa la Germania, e il cosiddetto fronte del sud, con la Francia che sta più orientata verso il fronte del sud, cioè con Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, però in queste ore tenta una mediazione. È vero, sì, dato che le origini di questa crisi non sono interne, non riguardano le politiche degli stati, ma si tratta di una crisi importata dall'esterno, in nome della quale si è compiuto oggi formalmente un passo che fino a due settimane fa sembrava impensabile, cioè la sospensione di fatto delle regole di bilancio del patto di stabilità. È evidente che non è possibile comportarsi allo stesso modo, cioè il tema della condizionalità deve necessariamente essere posto in termini radicalmente diversi. Detto questo, perché i nordici, chiamiamoli così per intenderci, hanno questa posizione rigida di rispetto delle linee di credito, delle condizioni delle linee di credito classiche, quelle che sono state usate per la Grecia, per intenderci. È come se un paese non fosse sommerso dal coronavirus, ma avesse sprecato soldi, non avesse tenuto a bada le finanze. Esatto, quindi il punto è perché loro sono preoccupati che venga smantellato il quadro della condizionalità. Solo che è proprio il negoziato politico, diciamo, proprio di che è in corso in queste ore, è quello di trovare una soluzione che riconosca in linea di principio, in linea di fatto, che non si tratta della stessa crisi. Ora, quale sarà la conclusione è veramente difficile dire. La cosa sulla quale tutti sono d'accordo, nordici e fronte del sud, è che alla linea di credito del meccanismo europeo di stabilità non deve accedere soltanto un paese, no? Non solo l'Italia, per ipotesi, perché se no sarebbe sei Calimero, rischierebbe l'effetto stigma, cioè Calimero, sarebbe considerato unanimemente un paese vulnerabile. Su questo sono tutti d'accordo, in realtà l'ostacolo è che tipo di condizionalità. L'Italia, giustamente, insieme con altri paesi, ritiene che non si può percorrere la strada come se si trattasse di una classica crisi finanziaria. Ecco, un'ultima domanda per te, Antonio, è un po' cinica, però. Allora, io davo la lista dei paesi contagiati. Sappiamo che nel nord Europa c'è meno, mentre la Francia già ha detto io quest'anno avrò un deficit ben al di sopra del 3,9. La Spagna sta stimando 300.000 posti di lavoro, PIL in calo. Non è che, scusami la battuta un po' brutale, non abbia colpito abbastanza il coronavirus nel nord d'Europa per far capire che stiamo affrontando una guerra, non un paese, un governo che si è messo a fare lo spendaccione e ha fatto saltare i conti? Ma non è che... No, direi che non ti seguirei su questo versante eccessivamente... No, non ti seguirei. Ma detto questo, in rapporto alla popolazione, in Olanda hanno tantissimi... non so se siamo allo stesso livello dell'Italia... Ma in rapporto alla popolazione non mi sembra che siano più di 2.500 i contagiati, quindi popolazione molto più ristretta rispetto a quella italiana. Quindi il problema ce l'hanno anche loro e ce l'ha fortemente la Germania, come sappiamo, anche in termini quantitativi. Sono 4.749 in Olanda e 213 morti, ho appena visto il dato. Quindi stanno nei guai anche loro. Il punto è che... è vero che questa discussione, questo difficile negoziato è anche comprensibile, dico soltanto dal punto di vista che ci si preoccupa non tanto di quello che può succedere in queste settimane, perché l'armamentario finanziario economico messo in piedi finora a livello nazionale e anche a livello UE comincia a essere poderoso, a mio avviso. Il punto è che in un certo momento potrebbe esserci una crisi finanziaria, cioè di credibilità sulla possibilità che hanno alcuni paesi di uscire dal debito. E quindi si discute oggi in fondo di una misura che servirà, che dovrebbe servire a difenderci domani. Questo difendere, diciamo, l'Eurozona, non un paese in particolare, ma è chiaro che l'Italia sta ballando la danza più rischiosa, ecco. Sì, con Spagna, Francia, Germania adesso che la seguono rapidamente. Poi un'altra volta affronteremo il tema invece della moratoria sul debito, perché io penso che il vero problema in questo momento sia che tutti i paesi avranno problemi per risollevare le loro economie. Quindi è una guerra che ha colpito anche gli Stati Uniti direttamente in casa, e quindi il vero problema sarà poi che nessuno ti presta i soldi come piano Marshall di una volta. Comunque adesso vedremo cosa succederà domani nella discussione sul MES. Era importante che tu ci raccontassi le varie posizioni e appunto l'idea che non possa essere usato come un normale strumento secondo Francia, Spagna e Italia, perché è una cosa eccezionale quella che è successa, e l'idea invece dei paesi del nord che debba mantenere le condizioni previste per uno strumento che in realtà si sarebbe dovuto applicare solo quando uno Stato rischiava la bancarotta per motivi suoi interni, e allora gli altri stati ti davano soldi ma ti chiedevano in cambio una specie di commissariamento. Grazie Antonio Pollio Salimbeni, adesso andiamo sul resto della programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barigioni comunque l'auguro di una buona serata da trascorrere mi raccomando, a casa.